Il punto di Stefano Folli. Come era facile prevedere, il tentativo di Grillo di fare scelte politiche, anziché restare arroccato sulla linea del no a tutto, sta provocando una crisi drammatica nel Movimento 5 Stelle. Il più ovvio degli argomenti è: ma come, l'anno scorso non avete voluto sostenere Bersani che chiedeva aiuto per un governo di centrosinistra e adesso vi mettete al servizio di Nigel Farage, leader xenofobo e antieuropeo? Se aggiungiamo la spaccatura che attraversa a colpi di dossier i gruppi parlamentari, confusi sul che fare, sulla strategia da adottare, otteniamo un dato di fatto: il ruolo di Grillo come guida e santone del movimento non esiste più, perché nessun leader carismatico può essere contestato. Il capo carismatico non può essere discusso, lo si segue e basta, anche quando vuole fare amicizia con un isolazionista inglese di estrema destra. Ma se invece Grillo è fermato nelle sue scelte, la sua funzione viene meno, come sta già accadendo. Allora i 5 Stelle diventeranno altro, forse un partito come ce ne sono tanti, ma prima dovranno consumare fino in fondo la loro crisi, frantumarsi e rinascere su nuove basi.